Ore 7 spaccate. Giovedì 20 dicembre 2007. Vi parla Ariele. Ciao ciao. Ho il piacere di augurarvi una buona giornata da qui fino alle 9 del mattino. In quella che sarà la puntata numero 150 di Pane, Burro e Rock and Roll. La nostra colazione! Può interessare? Vabbè, che se interessa fa piacere, no? Sì. Pane, burro e rock and roll. Un buongiorno a quella testa calda di Spadino. La tua colazione rock. Per ora siamo ancora soli in radio, eh? Pane, burro e rock and roll. L'MLM arriverà alla redazione, Roberto Fricantoni, e allora sì che sarà festa vera. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Quattro blocchi è la nostra. Ho deciso di dividerla in quattro blocchi la trasmissione. 1, 2, 3, 4. Semplice. Sono quattro mezz'ore. Ma i miei preferiti restate voi della prima mezz'ora. Io e Spadino non riusciamo a ricordarci in che blocco abbiamo passato ieri Buon Natale per Oro. Perché siamo messi male io e Spadino. Speriamo se lo ricordi, Freak. Allora stiamo messi bene. Ciao amici, ciao amiche, affezionati della nostra colazione, e che quindi ben sapete a cosa state andando incontro, restando sintonizzati su questa radio che risponde al nome di Rock FM. Un saluto anche ai novelli, che magari così per caso stanno spippolando la radio e arrivano su di noi. Ciao. Ehi, ciao, questa è Rock FM. Il programma si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. Il sottotitolo: La nicchia vincerà. L'altro sottotitolo, Buon Natale per Rock. È lo speciale che stiamo affrontando, le ultime due puntate di speciale natalizio. Quindi ragazzi, o parlate ora o tacete per sempre. Avete lamentele da fare, quant'altro, fatele. Sfogatevi con noi, sfogatevi che è rock, sfogatevi che vi passa. Ehi, ehi, come direbbe Fonzi, ehi. Ho visto la prima canzone di oggi. Ehi. Cosa posso dire se non ehi? Ehi, Led Zeppelin, ehi, Fool in the Rain. Ma dovevo dire oh yeah anziché yeah. Oh yeah. restless. When the members I run till I drop. Hey, thoughts of a fool's got cares. Just a fool waiting on the rock line. Led Zeppelin, Fool in the Rain. Da poco riunitisi per un unico concerto londinese al quale un paio di fedelissimi di Pane, Burro e Rock'n'Roll hanno pure partecipato, maledetti loro. A noi non resta che attendere la decisione di allargare la reunion anche a noi poveri cristiani, così, uomini comuni, che vorremmo vedere un concerto dei Led Zeppelin. Queste due ore di trasmissioni sono solitamente ingestibili, tranne i primi due blocchi, cioè i saluti iniziali e i contatti. Infatti mi trovo, ve l'ho detto spesso e volentieri, mi trovo proprio bene con voi, se solo non avessi Spadino che è messo male, con voi dalla prima mezz'ora, perché mi sento tranquillo, capito? Cioè i miei paletti, so che posso fare. Poi da quando arriva Freak e quello là telefona e la redazione mi dice chiama il sexy shop che mette i fiocchetti sui vibratori, e lì non capisco più niente e la trasmissione va a rotoli. Quindi vi saluto sempre con affetto maggiore rispetto agli altri. A voi della prima mezz'ora, ciao. Anche Mr. Trombetta vi saluta. Un amico disperato che mi contatta, voi vi chiederete come ha fatto a contattarci? Ma è semplice, vi do il numero, ve lo volete segnare? 335 100 7777. Casella di posta elettronica che vi ricordo utilissima per chiunque fosse interessato al calendario 2008, l'anno della svolta. Secondo me qualcuno di voi non ci crede che c'è. Ma potete vederlo su internet. Ariel@radiorockfm.com. Tutti voi che avete scritto, tranquilli, non vi ho ancora riscritto, lo so. Ci sto pensando ancora. Devo pensare prima di riscrivere le persone. Sono un ragazzo serio. Mi spiace per l'amico disperato che ieri mattina si è perso il primo blocco di Pane, Burro e Rock'n'Roll e ci racconta la delusione di arrivare a casa la sera e di non ritrovare la puntata su RadioRockFM.com. Buon Natale però, Rock, anche a te. E faremo saltare delle teste, cari amico, grazie per la segnalazione, anche perché noi l'avevamo mandata la puntata. Io e Spadino abbiamo lavorato fino alle 3 ieri. Le 3! E qualcuno che si lamenta per il freddo becco. E un saluto anche a Cristina che si è svegliata senza motivo alle 5 del mattino canticchiando nella testa Buon Natale però Rock. Brava Cristina, complimenti. Questo è amore, una canzone da motivetto nella testa, buona. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te Cristina, tra l'altro è molto carino che tu ti svegli alle 5 cantando Buon Natale però Rock e non ci odi, perché... a me un filo di carognetta mi sarebbe venuta così. Invece no, va bene. Buona giornata anche a te. Arriva Freak, eccolo là. Ciao Freak. E niente, c'è anche oggi, che ci vuoi fare? Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. manager, mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you on, son, into something strong. Play the song with the funky break. And go-kart Mozart was checking out the weather charts, see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly-whirly and asked me if I needed a ride. It's gonna make it through the night. Buongiorno maestro Roberto Fricantoni, corra negli studi a salutare il suo pubblico. Molto volentieri, ciao pubblico. Ho corso solo per salutarti. Ciao radioascoltatori e ciao radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Spero voglia soffermarsi ancora qualche secondo, almeno per fare l'almanacco del giorno che fu, per iniziare la giornata in un classico stile Pane, Burro e Rock and Roll. Ma lo sa benissimo che per me l'almanacco è come il caffè della mattina, indispensabile! Era il 20 dicembre del 1967 quando la cantante Joan Baez è condannata a 45 giorni di prigione dopo essere stata arrestata durante una manifestazione contro la guerra. Adesso la frego, le faccio la domanda che lei di solito farebbe a me in questi casi. Tic-tac, lei è mai stata... Allora mi dica, venga qua sul cerchietto. Mi fa male starle vicino, maestro. Mi dica, sì. Mi dica subito, se lei è mai stato arrestato, sì. Se sì, perché e quanti giorni di galera si è fatto? Via col cronometro. Ma è una risposta simpatica, sforzata o posso dire la verità? Dica assolutamente la verità. Guardi che il tempo passa, Non mi viene in mente nulla, il tempo maestro. Che passa. Un vuoto, carta bianca. Carta bianca. Mi potrei mettere a piangere. Allora. Non sono mai stato arrestato! Evviva! La risposta è esatta, molto bene. Passiamo al 20 dicembre del 1975 a Blackpool. Mi scusi per il pool, ma volevo dirlo così. In Inghilterra due transfughi della John Evans Blues Band, il cantante Ian Anderson e il bassista Glenn Cornick, formano i Jethro Tull proprio oggi, nel 75, ispirandosi per il nome a un agronomo inglese del XVIII secolo. Lo sapeva, maestro? Ma sì, avevo letto qualcosa in proposito, dissero i Jethro Tull, abbiamo scelto quel nome proprio perché mai e poi mai quell'agronomo avrebbe pensato di far parte, di figurare come se in un gruppo rock. Decidesse di chiamare il suo gruppo Fricantoni. Anche se non è un agronomo, lei. Ma sì, quasi. Lei è stato agronomo? Ha studiato agronomia? Sì, io ho studiato, sono infatti perito agrario. Che bella scoperta che abbiamo fatto stamattina. Chiuderei. Ci tenevo a dirlo. Chiuderei. Con la Corte Suprema. Esatto, era il 1999. Sì. La Corte Suprema della Vermont. Vermont. Esatto. Stabilisce che le coppie omosessuali, i gay, No, non faccia così. Hanno diritto agli stessi benefici e garanzie delle coppie sposati eterosessuali. Oh, guardi il Mike. Non faccia che mai. C'è in me, non faccia il Mike sessista, la prego. Si ribella a queste notizie. Perché? Cosa perché hanno non fatto è giusto di che questi culattoni, no, ma è omosessuale, nel senso buono, sì, abbiano le stesse possibilità. Cosa sta facendo con quella mano? Il gesto del cos'è? Battacchio. Eccolo lì, bravo, complimenti, molto maestro. Bene, molto lei bene. È veramente... Sono contento di me. Sì, io un po' meno, ma va bene. Viva i gay! Viva i gay? Sì. Devo riflettere su questa sua affermazione. Ci riflettiamo un po'. Venga di là con me, dai. Cosa fa? Mi prende per mano? Lei, Ariel, diventa ogni giorno più ambiguo, se lo lasci dire. Cosa fa? Cosa no. Mi la... cosa andiamo! Fa? Cosa musica! Fa? I'm in you, Peter Frampton. Ero perso a sgridare la redazione. Perché? Non ho capito se abbiamo sbagliato noi o ho sbagliato la redazione. Adesso vado a riprendere il foglio. Abbiamo sbagliato una datina riguardante il Jethro Tull e subito quella ci è attaccata alla carotide proprio. Grazie cari per le segnalazioni. Scopro con parecchia inquietudine che l'amica di prima non è la sola che si sveglia nel cuore della notte cantando Buon Natale per O'Rock. E ci vuol bene lo stesso anche lei, è strana questa cosa. Ma io ho fatto altri sogni stanotte che non vi posso raccontare. Saluto allora anche Vale, dai non sono la sola, stanotte non riuscivo a prendere sonno, cantavo di continuo Buon Natale per O'Rock. E poi facevo anche la voce stridula di Freak che imita il cantante degli ACDC. Degli ACDC, sì. Oh, sono le 7.23 adesso, eh. Veniamoci incontro. Degli ACDC. lo sapete solo voi e il mio ragazzo che non ha commentato, ma mi ha guardato con occhi pietosi. È grave? No! Mentre questo messaggio... Ah, questo messaggio... Vabbè, ce n'è uno che mi stavo commuovendo prima su Peter Frampton. Lo leggo con calma dopo, Franz, eh. Devi smettere di scrivere messaggi così, perché abbiamo cuore dolce qui, eh? Mentre ce n'è un altro meraviglioso, io mi rivolgo personalmente a Pierpaola, che scrive stamani: non ho proprio voglia di andare a scuola, vorrei stare ancora qui con voi e ascoltare rock tutta la mattina. Però Pierpaola non è una studente, Pierpaola è una professoressa. E allora pensavo, Pierpaola, perché gli studenti possono bigiare e le professoresse no? Cioè, quanto sarebbe rock se tu in questo momento che stai parcheggiando e non hai voglia di andare a scuola, perché lo sai che non c'hai voglia. Facciamo la rock stamattina, vieni qui da noi, vieni qui, passi la mattina qui e ti fermiamo noi la giustificazione. Come si faceva ai tempi, come fanno i tuoi alunni, perché loro possono farlo e tu no? È ingiustizia. Noi ti sproniamo, vieni in via Locatelli 1, 20124 Milano e bigia. Sarebbe veramente rock. Intanto saluto te e tutti i professori e le professoresse che ascoltano Pane, Burro e Rock and Roll. Non riusciamo a capire come mai, ma siete in tanti e la cosa ci fa ovviamente molto piacere. Everywhere it's Christmas! Everywhere! I Beatles! London! Paris! And New York! And the end of the year. Everywhere is Christmas. At the end of every year. Oh, everywhere is Christmas. At the end of every year. Yeah. Everywhere is Christmas. At the end of every year. One more time now. Everywhere is Christmas. At the end of every year. Che bello cantare coi Beatles. Merry Christmas! centro commerciale Duse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini, accorrete numerosi. Papà! Sì, tesoro, meglio dire Babbo Natale. No, papà, papà! Scusa? La mia mamma è quella rossa là in fondo e dice che sei il mio papà. Ah, ma allora tu, Carlotta, avanti un'altra, per favore, avanti un'altra. La prossima.